Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Nel computer i segreti di Bossetti cercava tredicenni nei siti pedofili, scrivono Paolo Berizzi e Piero Colaprico. Computer acceso in casa di Massimo Giuseppe Bossetti, accusato dell'omicidio di Iara. Sul motore di ricerca viene digitata la parola tredicenni e si scaricano immagini dal contenuto pedopornografico. L'articolo continua a pagina 18. Questo è il titolo, parola chiave tredicenne nel computer di Bossetti, la ricerca sui siti pedofili a 2 mesi dall'arresto, nuova svolta dai PC sequestrati. E questa è dati in memoria, la cronaca letta in una rassegna stampa su vari giornali su tutto ciò che riguarda Massimo Bossetti, personaggio che è al centro dell'attenzione mediatica nel nostro paese. È una persona che è accusato di essere l'assassino di Iara Gambirasio. Il fatto che lo sia comunque è ancora tutto da dimostrare. Può star simpatico o non simpatico, l'Italia come sempre quando un caso è fortemente coperto dai media poi si divide, chi segue questo tipo di programmi, cioè programmi a carattere delittuoso con lo svisceramento quotidiano di ogni particolare, di ogni addebito, di ogni indizio, di ogni chiacchiera, di ogni parere, di ogni punto di vista, naturalmente sa tutto, ne sa più di un magistrato. I magistrati fanno il loro mestiere, quindi interrogano. Io questa mattina, guardando i miei giornali, ho visto il titolo in prima pagina di Repubblica: Bossetti e magistrati, guardavo siti porno assieme a mia moglie. E mi sono detto, è lecito che un magistrato chieda una persona accusata di un delitto a sfondo sessuale alcuni particolari riguardo la sua vita privata e rapporti con sua moglie, ma non so quanto, e qui la deontologia bisogna stiracchiarla come se fosse un elastico. Mi pongo la domanda, non ho pregiudizi, c'è qualcosa in questo che a me mi dia fastidio, mi sono chiesto quanto però in realtà sia il caso di dare ampia, vasta, molto evidenziata evidenza al fatto che questi siano particolari, comunque riguardano la sfera privata personale di Bossetti, finché non diventano oggetto di pubblico dibattimento, finché sono interrogatori. Non mi sembra poi così corretto, dato che la presunta innocenza di ogni persona si trova nella macchina comunque di un'inchiesta di questa rilevanza è così grave, che siano pubblicizzati. Guardo il titolo all'interno, guardavo siti porno con mia moglie, ma ha cercato video con minorenni. Questo attiene comunque alla notizia delle indiscrezioni già uscite ampiamente su questo interrogatorio. Questo è l'ultimo interrogatorio, quello avvenuto il 6 agosto, scusate, nel carcere di Bergamo. Leggo qualche domanda, ripeto, è lecito che la faccia un magistrato, non so, e me lo domando, quanto poi sia giusto che appaia nei giornali. Avete mai avuto crisi di coppia? Mai. Il sesso tra voi funzionava? Sì, facevamo l'amore 2 o 3 volte a settimana. Qui si apre uno squarcio che forse non rilevante ai fini dell'indagine, comunque è stato allegato agli atti. Sì, ma è stato anche scritto sul giornale. Io stesso lo leggo adesso, ma lo leggo per farmi una domanda. Lei sa che sua moglie aveva degli amanti? È impossibile, non ci credo, siamo troppo legati io e lei, ci diciamo tutto. Lei ha avuto delle amanti? A noi risulta qualche scappatella con la signora. Andavo a mangiare là, parla di un ristorante dove andava Bossetti, questa famosa signora, gli attribuiscono come amante, anche questa sicuramente già il mondo saprà chi è probabilmente, e in un ristorante ci ho portato anche mia moglie, via dicendo. Dice, ha mai avuto storie? Ha cercato relazioni in internet? E lui gli comincia a parlare, a entrare nel campo. Ma a me la cosa che mi interessa è che debba essere necessario pubblicare, sapere, divulgare il fatto che Bossetti avesse 2 o 3 volte a settimana rapporti sessuali con la moglie, che guardasse siti porno insieme alla moglie, che insomma avesse una sua, fatti suoi, vita personale, coniugale, personale, individuale, che questo oggi sia oggetto di dibattimento. Mi chiedo se su questo ci sono dei limiti posti o dal diritto o in realtà posti dalla personale sensibilità. Probabilmente è giusto fare una pagina del giornale col titolo guardavo siti porno con mia moglie, perché la gente è interessata, dai notizie, è un delitto che tutti vogliono notizie, noi facciamo il mestiere di dare notizie. Stefano Ricci, buongiorno. Buongiorno. Intanto chiedo alle persone 800240024 come vi ponete di fronte a questo problema. Vi piace sapere, volete sapere tutto, volete entrare anche nei particolari più privati, più scabrosi, ma tenete conto che potrebbe accadere a chiunque di noi in ogni momento trovarsi in questa macchina, dover dimostrare la propria innocenza, e non so quanto questo poi faccia piacere o quanto resti attaccato addosso, ammesso e non concesso che sia dimostrata la propria innocenza. E poi riguarda anche la moglie. Che colpa ha, che tipo di corresponsabilità, perché possa essere messa in piazza la sua vita sessuale. Stefano Ricci, ricordo, è avvocato, docente universitario di informatica giuridica, esperto in privacy. L'avvocato come giudica colpo d'occhio quello che ho detto fino adesso? Ma i due piani fondamentali sono quelli che hai già dispinto, nel senso il piano relativo all'attività di indagine, di cui ovviamente è padrone il pubblico ministero, e il pubblico ministero sta tentando di ricostruire quello che potrebbe essere il movente dell'azione della persona che in questo momento è sottoposta ad indagine. È giusto che gli chieda qualunque cosa riguardo alla sua vita personale, quello è chiaro. Nel momento in cui è attinente all'accertamento di un fatto avente rilevanza penale, in questo caso ovviamente deve ricostruire quello che potrebbe essere il movente, che non è sicuramente un elemento essenziale del reato, ma è un elemento importante in un procedimento del genere. C'è poi però il secondo piano, che è quello dell'informazione, perché evidentemente nel momento in cui degli atti processuali diventano noti alla persona sottoposta in indagine, il giornalista può pubblicarne il contenuto, però dovrebbe pubblicarne il contenuto avendo sempre in mente l'essenzialità dell'informazione rispetto a quello che è il suo diritto di però cronaca. È a discrezione individuale, non è che è stabilito in maniera così. No, me lo domando perché anch'io mi potrei trovare di fronte allo stesso problema. Io avrei imbarazzo nel raccontare le fatti personali di una persona qualsiasi, sinceramente. Poi non è diciamo che alcuni criteri sono stati posti soprattutto dal garante della privacy, che ha svolto un'attività intensa rispetto all'attività giornalistica e al diritto di cronaca, e ha fissato alcuni principi, in particolar modo per quanto riguarda le persone che non sono coinvolte nel procedimento, come in questo caso la moglie, che come hai detto giustamente tu vede pubblicata e pubblicizzata la sua vita personale a prescindere da un suo coinvolgimento diretto. Nessun reato, ma non credo che faccia piacere a una signora che si legga che guardava i siti porno col marito o che faccia amore un tot di volte a settimana. Ma come arrivano i verbali? Come fa un verbale a arrivare poi a essere pubblicato sul giornale? Qual è l'iter? Ma allora, bisogna dire che tutti quanti gli atti di indagine che poi vengono resi noti ai vari soggetti processuali, diciamo passano abbastanza di mano in mano, escono dall'ufficio. Sì, ma non sono atti pubblici, nel senso vanno, l'avvocato ce l'ha in mano, l'avvocato li passa ai giornalisti. Esattamente, o meglio, ci sono vari canali con cui possono passare ai giornalisti. Nel momento in cui non c'è più il segreto di indagine, il giornalista può appunto prenderne visione e può pubblicarne il contenuto, non l'atto in forma integrale, perché l'atto in forma integrale segue delle altre scansioni da un punto di vista procedimentale, ma il contenuto sì, nel momento in cui questo è essenziale per il diritto, per l'esercizio del diritto di cronaca. Beh, io vedo la foto. Le prime delle 80 pagine del verbale interrogatorio, citato come fonte da cui è stato preso queste cose. Come si dovrebbe regolare, secondo te, in questi casi? Quale sarebbe la via corretta? Ma questo è uno dei temi più dibattuti, perché ovviamente è un tema molto difficile, che attiene proprio al corretto esercizio dell'attività giornalistica e comunque appunto a due diritti molto importanti che entrano in contrapposizione: diritto alla privacy, che soprattutto quando riguarda persone accusate di come dire, delitti così odiosi viene facilmente sacrificato proprio su quest'altare, insomma, che questa persona è praticamente già data per mezza condannata, come hai detto tu, e quindi è giusto divulgarne tutte quante le informazioni, e appunto questo diritto alla privacy da una parte e dall'altra parte diritto alla cronaca, cioè dare più informazioni possibile sul fatto di cui tutti quanti quindi parlano. Si alimenta in realtà un atteggiamento pregiudiziale, una persona che tu puoi dire quello che vuoi, ha la faccia proprio, cioè c'è una faccia strana, è un tipo strano, ha tanti elementi contraddittori, benissimo, ma la realtà processuale, la certezza processuale è un'altra cosa. Assolutamente, era sempre costantemente abbronzato, ci sono stati anche questi elementi che sono stati insomma pubblicizzati per, come dire, ed è stata gettata una luce sinistra su questa persona ben prima dell'accertamento processuale, perché poi sappiamo che il problema vero è poi la lunghezza di questi processi e fra, come dire, l'esito di questo processo sarà magari fra qualche anno, l'abbiamo già visto per Garlasco, il caso di Stasi, piuttosto che per i delitti di Perugia. Poi il problema diventa quello. Che sui posso fare un'altra domanda che coinvolga più personalmente gli ascoltatori, ma ammesso che un domani qualcuno stabilisse una norma che si possa guardare nei computer di tutti gli italiani e fare resoconto esatto di tutto ciò che c'era nei motori di ricerca o latente negli hard disk degli italiani, pensi che questo non assomigli un po' a quello che in questo momento si sta facendo, dicendo cercavi siti porno, guardavi siti porno e lo si divulghi al di là, diciamo, della necessaria indagine processuale? No, senz'altro sì, senz'altro qui. Le motivazioni sono abbastanza chiare appunto per gli inquirenti in quello che si diceva prima, cioè tentare di dare un movente ad un fatto che di per sé sembra assolutamente ingiustificabile e folle, e quindi bisogna dare un po' di retroterra. È ovvio che nel momento in cui non c'è una discriminazione di questo tipo, per quanto, come dire, tenue sia, diventerebbe una situazione veramente preoccupante. Sentiamo Stefano da Biella, buongiorno Stefano. Sì, buongiorno. Ma guardi, io ritengo che quando uno viene accusato di un crimine del genere, poi ammesso, non ammesso che sia colpevole o no, questo non sta mai a giudicarlo. Quindi se, però per assurdo, se uno di qualsiasi uno di noi si trovasse di fronte a un giudice che gli pone determinate domande, insomma, uno magari si sentirebbe anche in dovere di rispondere, quindi di mettere a nudo la propria privacy. Chiaro, che se non ha niente da nascondere di raccontare tutto, chiaro. No, ma è anche giusto che vengano scandagliati gli hard disk di un computer. Giustissimo, certo. Cioè, fin qua non c'è. Qui il problema, secondo me, è un discorso anche, cioè, di divulgazione della notizia stessa e poi come venga divulgata dai giornali, che si concentrano poi su queste cose che, tra virgolette, possono anche essere becere, ma di puro gossip, che ai fini di un'indagine potranno servire per chi acquisisce queste informazioni. Ma io mi domando anche, ma allora io vado a confessarmi da un parroco? No, per assurdo. E poi vengo accusato di un crimine, viene ascoltato il parroco e il parroco dichiara tutto quello che io ho confessato a lui, chiuso in sacrestia con lui. Allora dico, ma dov'è il limite che si può valicare o non? Beh, dice giustamente, una persona che in teoria non ha nulla da nascondere, vuota il sacco e dice tutto al magistrato, chiaro, più particolari dà e più si discolpa. Però è difficile dirlo con la certezza che poi diventerà materiale pubblico, divulgato. Ma è quello che io mi domando, ma se io vado da un parroco non mi posso, e lui mi fa una domanda, che ne so, hai mai tradito tua moglie? E io rispondo sì. E poi, cioè, è ovvio che non mi aspetterò mai che queste notizie vengano divulgate in pubblico, perché sto parlando di fronte a un parroco, quindi al segreto, tra parentesi, chiamiamolo professionale, giusto? Mi sembra chiaro, 800240024, ci fermiamo soltanto un istante, poi ripigliamo la riflessione. Avete mai pensato che anche voi potrebbe capitare di raccontare cose vostre molto personali? E dovete considerare anche il fatto che queste cose comunque sia potrebbero diventare pubbliche se ciò rappresentasse un elemento di grande richiamo e di attenzione. Melog, cronache meridiane. L'ha mai incontrata la ragazzina? Non l'ho mai vista né incontrata. Giuro sui miei figli. Ha mai avuto a che fare con la famiglia Gambirasio? Mai. Ho solo visto una volta Fulvio Gambirasio nel cantiere di Palazzago, perché era venuto a fare un sopralluogo. Se fosse capitata a me una cosa così tremenda, non avrei avuto la forza neanche di andare a lavorare. Sarei andato a cercare mia figlia giorno e notte con gli inquirenti. Nel vostro mondo 00024, il tema di questa mattina è un'osservazione, una riflessione, poi lascia naturalmente il tempo che trova, poi ognuno fa come gli pare, di come è possibile trattare in maniera coerente, in maniera corretta, senza deludere le aspettative dei propri lettori, dei propri ascoltatori, ma senza nemmeno non considerare il fatto che la vita privata e personale di molte persone ne possa venire fortemente danneggiata, casi di cronaca che sono all'ordine del giorno perché fanno molto ascolto in televisione, perché sono un po', diciamolo chiaro, il Viagra della stanchezza di tanti programmi televisivi, quindi ci si infilano sempre in mezzo e i giornali naturalmente vanno a coda. E io questa mattina, in piena coscienza, consapevole del fatto di prendermi la responsabilità di sentirmi dire "ma anche tu ne parli alla fine", questa è la riflessione che vorrei fare. Marianna Aprile, buongiorno. Buongiorno. L'amica Marianna, giornalista di Oggi, che si è occupata negli ultimi anni moltissimo di tutti i casi, diciamo, più sanguinolenti, pruriginosi e difficili da trattare, quindi le cose le ha viste, le ha raccontate e le ha scritte. Tu come l'avresti affrontato un problema del genere? Ma guarda, in realtà il riportare in maniera così pedissequa l'interrogatorio, anche con dettagli che per stessa ammissione dei colleghi, perché a un certo punto l'hai letto anche tu, no? Dice, scrivono "qui si apre uno squarcio, forse non rilevante ai fini delle indagini, ma è comunque legato agli atti". Ora, sul perché si alleghino agli atti cose non rilevanti per le indagini si potrebbe aprire un altro capitolo, però è una riportarlo in maniera così pedissequa è una scorciatoia. Se vogliamo, cioè, ammesso fosse così necessario far sapere al di fuori dell'inchiesta ai lettori Bossetti e sua moglie avevano una vita sessuale normale e regolare, ammesso fosse necessario, c'era anche un modo, diciamo, per dirlo senza riportare le esatte parole, l'esatta frequenza dei rapporti, eccetera. Però, Marianna, ti rendi conto? Noi dobbiamo soddisfare delle persone che ormai vivono questa storia a tempo reale come se fosse una fiction a puntate, quindi non avere i particolari, averli prima loro, prima che siano elaborati da chi poi deve amministrare la giustizia. Sì, ma c'è anche un modo, io non voglio fare Candide e dire che non andrebbe fatto, eccetera. Esiste un modo garbato per fare qualsiasi cosa. Io ti faccio un esempio che mi riguarda. Quando ci fu il famoso caso Marrazzo, lo scandalo Marrazzo, che non era roba da poco, tu hai passato giornate a casa delle trans, hai avuto i particolari, quindi potevi fare quello che volevi. C'era la gara da parte di queste persone a dare dettagli più o meno scabrosi sulla vita privata di Marrazzo. Ora, al di là del fatto che non si trattava di dettagli verificabili e quindi era già una responsabilità eventualmente pubblicarli perché non erano verificabili in alcun modo, ma quello che ci chiedemmo io e il mio direttore di allora, Candida Morvillo, era: ma ci interessa? Vogliamo perdere così di vista il fatto che si tratta, che Piero Marrazzo è parte lesa in questa storia, non era indagato per nessun tipo di reato, in quella storia era la vittima, ricordiamolo. Ma anche fosse stato nella posizione di Bossetti, cioè di indiziato numero uno di un qualsiasi reato, quei dettagli che ci venivano così offerti a mazzi aveva un senso raccontarli così nel dettaglio, o semplicemente noi abbiamo dalla nostra la lingua, che sarebbe anche il nostro lavoro saperla usare in maniera precisa e descrittiva, no? Noi possiamo con una sintesi in un buon italiano e garbato far capire quale fosse la circostanza, quale fosse la relazione tra... Senza fare il copia e incolla dell'interrogatorio, che ha la sua giusta crudezza, perché serve ad arrivare a degli elementi di verità, quindi è giusto che sia crudo l'interrogatorio. L'interrogatorio sì, ma è giusto che sia così, perché così è utile a chi deve indagare. Chi invece deve raccontare non ha necessità di riportare le cose con la crudezza di un interrogatorio. E aggiungo un'altra cosa: nella paginata di Repubblica di oggi c'è veramente una specie di campionario dei problemi che storie di questo tipo pongono. Sarò brevissima. Intanto c'è nel titolo l'esasperazione di un dettaglio. Ora, se voi leggete l'interrogatorio, Bossetti dice può essere capitato che io e mia moglie abbiamo guardato siti porno. Il titolo è "guardavo siti porno con mia moglie". Okay? Che fra l'altro in sé non è un reato, i siti porno ci sono perché uno ce li ha e li guarda, sennò... Sì, ma poi c'è uno slittamento di senso tra quello che dice Bossetti e quello che è riportato nel titolo, che è normale perché i titoli sono sempre un po' esasperati, però diciamo questo è un primo elemento. Poi ci sono dettagli pruriginosi utili all'indagine, E va bene, quindi la ricostruzione della sfera sessuale di Bossetti al magistrato può essere di qualche aiuto, ma però ci sono dettagli fuligginosi, non solo inutili per il lettore dal mio punto di vista, ma anche a occhio inutili, superflui per l'indagine. Per esempio il dettaglio su quando il PM chiede a Bossetti, dice: ma lei lo sa che neanche suo fratello è figlio di Giovanni Bossetti? Allora, che senso c'ha sapere se il fratello di Bossetti è figlio o no di quello che loro hanno sempre ritenuto essere il loro padre? Lui risponde: non ci credo. Già hai messo in causa un altro fratello, è tirato dentro un altro fratello. Abbiamo tirato dentro il fratello, che non c'entra nulla, abbiamo tirato dentro già in passato la moglie, i presunti amanti della moglie, adesso la signora del ristorante, che a noi non dirà niente, ma lì è un piccolo centro. C'era la corsa adesso, c'era la corsa la signora del ristorante. Cioè è un confine ampiamente superato. Ma noi comunque non credo che abbiamo perso il nostro tempo nel cercare di confinare nella possibilità di fare un buon mestiere, un buon servizio, quello che secondo noi è giusto fare e non fare. Grazie Marianna Aprile, a domani.